America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, meno 1,14% per l'indice Dow Jones, una caduta di 238 punti. Continua ad esserci, ne parliamo da qualche tempo, questa atmosfera così un po' di apprensione, di attenzione. Quando si raggiungono dei record, quando si corre molto, si sa che forse una correzione è possibile. Alcuni si domandano da qualche tempo se forse non sia arrivato il momento per questa correzione. Cosa ha contribuito alla perdita di ieri? Ha contribuito l'incertezza sulla riforma sanitaria, il fatto che sul progetto per la riforma fiscale e riduzione delle tasse il presidente Donald Trump ancora non ha presentato un piano credibile. Sul fronte delle infrastrutture non c'è ancora un progetto da portare in Parlamento e dunque i mercati cominciano a nervosirsi, anche perché sulla riforma sanitaria proposta da Trump, che dovrebbe sostituire Obamacare, sappiamo che in Parlamento ci sono molte resistenze non solo dei democratici ma dei repubblicani. E Trump è partito all'attacco, ha detto ieri, subito dopo un incontro che ha avuto con i repubblicani, ha detto: vi verrò a cercare uno per uno, ma so che non dovrò farlo perché voterete sì. Una sconfitta non è accettabile. Defeating ISIS remains the United States' top international priority. Fully committed to working with the 68-member global coalition. Ecco, avete sentito? C'è la coalizione anti-ISIS, sono 68 paesi che si riunisce oggi a Washington. Sarà una o due giorni, sarà l'occasione per capire davvero Trump come vuole sconfiggere l'ISIS. Per ora l'impressione che abbiamo, questo l'abbiamo già detto, è che sta seguendo la traccia che ha impostato il presidente Barack Obama. Ma del resto i 68 fanno parte di una coalizione messa insieme dall'amministrazione Obama. I have a message for the terrorists. We will find you, we will destroy you, and we will win. Ecco, ma torniamo all'ISIS, perché questa è una partita centrale per l'amministrazione Trump, è stata una delle promesse più ricorrenti durante la campagna elettorale. Trump che dice: sconfiggeremo ISIS, come avete sentito. Ecco, detto questo, Trump secondo me si è reso conto che forse la situazione sul campo è un po' complicata. Non solo, gli conviene ovviamente seguire le orme di Barack Obama, perché questa coalizione di 68 paesi esiste, c'è. Tra l'altro la strategia di Obama ha funzionato, perché una buona parte del territorio è stato riconquistato dalle truppe alleate, soprattutto dalle truppe irachene. Gli americani in questo momento si occupano soprattutto di addestramento. Trump si rende conto che non può dire ai suoi concittadini, a chi lo ha votato: manderemo dei soldati in Iraq. Ce ne sono alcune migliaia, forse ne manderà altri, però saranno operazioni limitate all'addestramento. Ecco, Trump ha chiesto un documento a Jim Mattis, segretario al Pentagono, che gli dia una nuova impostazione per la politica antiterrorismo. Se ne discuterà in questi due giorni, se ne discute nel dibattito fra gli esperti di politica medio orientale. Mi ha colpito molto una dichiarazione di Emma Skye, delle sue riflessioni. Emma Skye ha scritto un libro recentemente, The Unraveling, che racconta della sua esperienza in Iraq. Ho proprio Emma Skye con me ai microfoni di America 24. Buongiorno, Emma. Hello, Mario. Ecco, Emma, credi che in questi due giorni Donald Trump farà qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto Obama con i 68 ministri degli esteri che hanno fatto parte della coalizione? Il presidente Trump di fatto sta continuando sulla stessa linea impostata da Barack Obama. Il piano prevede di riconquistare prima Mosul e poi Raqqa, la roccaforte dell'ISIS in Siria. Ecco, c'è stata un'operazione, la prima operazione ordinata da Trump, quella nello Yemen, che non è andata bene, e lui ha sempre detto che avrebbe cercato di introdurre delle operazioni aggressive anche molto mirate. Pensa che resterà dedito a questa strategia di operazioni militari aggressive oppure farà qualche passo indietro? Non so se aumenterà il numero di operazioni come quella vista in Yemen, ma Trump ha ripetuto più volte che intende distruggere l'ISIS rapidamente. Questo potrebbe anche significare un'accelerazione nelle operazioni, ma l'approccio di base resta lo stesso. Una decisione cruciale dovrà invece essere presa a breve in Siria, dove bisogna stabilire quali saranno le forze che combatteranno per la riconquista di Raqqa. Da una parte ci sono i reparti turchi che appoggiano le milizie arabe e quelle di altri stati in Siria, mentre dall'altra parte ci sono i curdi appoggiati dagli americani. Le forze curde sono di fatto quelle più efficaci sul terreno, ma la Turchia è molto irritata nei confronti degli Stati Uniti per averle supportate. La battaglia per Raqqa è destinata a durare a lungo e si vedrà se gli americani appoggeranno o meno i curdi. Ma la questione però è un'altra. Una volta che Raqqa sarà stata liberata, chi sarà che ne prenderà il controllo? Chi gestirà la città e la provincia circostante? governor, if you like, who is going to be the mayor, who is going to actually run the city and the province. Russia e Iran sono esclusi da questa coalizione. È un errore oppure una scelta lungimirante di Trump? Russia and Iran are very active on the ground. La Russia e l'Iran sono militarmente molto attivi in Siria, ma spesso i loro attacchi non sono diretti ai militanti dell'ISIS, ma ad altre forze d'opposizione presenti nel paese. E qui sta la contraddizione. Questi gruppi sono supportati dai paesi occidentali e dagli Stati Uniti. There is this contradiction there. Ecco, sei ottimista sul fatto che ISIS possa davvero essere sconfitto? I think this iteration of ISIS will soon be defeated. I don't think there's any question of that. L'ISIS sarà sconfitto molto presto, ma se le condizioni che hanno portato alla sua ascesa non verranno affrontate e le lamentele della gente che li ha supportati non verranno prese in considerazione, allora temo che nel giro di pochi anni potrebbe rinascere sotto una nuova forma. L'ISIS, infatti, non è la causa dei problemi in Medio Oriente, è solo il sintomo. Il sintomo di un fallimento politico. Sono proprio i regimi autoritari a spingere le persone a unirsi ai gruppi estremisti, perché non possono ottenere i cambiamenti che vogliono, posti di lavoro, maggiori opportunità, attraverso la discussione politica. Se non si affronta questo problema, il fenomeno dell'ISIS si riproporrà di nuovo, in continuazione. Ecco, ultima domanda. Pensiamo a casa nostra, riguarda il terrorismo nei nostri paesi. Tu credi che ci sia una possibilità per contenere questi attentati oppure dobbiamo rassegnarci sul fatto che il terrorismo ha messo radici nei nostri paesi e continuerà a prolificarsi? Terrorism is always unnerving for populations. Il terrorismo è un fenomeno snervante per la popolazione, ma bisogna analizzarlo in prospettiva. Non dobbiamo permettere che le nostre libertà civili vengano meno di fronte alla nostra ossessione di fermare il terrorismo. È molto importante avere una buona intelligence, condividere le informazioni e avere buone politiche di controllo dei confini. Ma il modo migliore per risolvere questo problema è affrontare alla radice le ragioni che spingono le persone a unirsi alle file dei terroristi. Soltanto questo è un approccio che guarda davvero al futuro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, rappresenta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Avevo sempre con me Emma Sky, ai microfoni di America 24. Emma, a song of the day. Simon & Garfunkel, I'm a rock. I'm a rock, sono una roccia di Simon & Garfunkel. Beh, direi che noi tutti dovremmo essere davvero delle rocce nel combattere questa minaccia del terrorismo di matrice estremista islamica. I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!